1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 7:19 minuti, non sentite quel profumo che vi fa dire è venerdì, cari amici. Allora, si chiude la 142esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Guardiamo la prossima con ottimismo, come sempre con ottimismo. Dai che è il momento di leggere i giornali, forza, forza! È per l'appunto venerdì 22 gennaio, le aperture. Draghi la fa da padrone sul Sole 24 Ore, banche italiane con alti livelli di garanzia, così dice il presidente della BCE. Così il Corriere della Sera, Draghi rassicura le borse. Anche Repubblica, Draghi, la BCE pronta a tutto, le borse volano. E ancora il Messaggero, banche, Draghi scalda le borse. Il Giorno, Draghi in campo, borse su. Il Giornale, Draghi salva l'Italia e Verdini salva Renzi. Qui ecco che c'è la politica che entra in gioco. Anche per il Fatto Quotidiano, Verdini gli salva la schiforma e Renzi gli regala tre poltrone. Sapete che il Fatto definisce la riforma costituzionale la schiforma. La Stampa, l'Unione Europea mette sotto esame le frontiere. Libero invece, come evitare le trappole del nuovo canone RAI. Il titolo invece dell'Unità è su Quarto, le dimissioni del sindaco Rosa Capuozzo, fallimento a 5 Stelle. Questo è il titolo di prima pagina. Voglio partire da che cosa? Riannodiamo i fili con la notizia che ha coinvolto l'ex amministratore delegato di Expo Sala, candidato alle primarie del centrosinistra a Milano, perché oggi il Giornale, che aveva dato per prima la notizia di un architetto che ha sistemato la villa, ha lavorato per la villa di Sala in Liguria, è stato anche l'architetto di Expo, e Sala ha detto è vero, ha preso 110.000 euro da Expo. Tre commesse, siccome tutte erano sotto la soglia dei 40.000 euro che impone gare pubbliche, è tutto in regola. In realtà oggi i giornali, il Corriere della Sera e il Giornale che torna con Luca Fazzo su questa vicenda, raccontano una verità un po' diversa. Leggo i titoli intanto. Il Giornale, la bugia di Sala sui soldi all'archistar di Expo e Villa. E anche il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella a pagina 15. Quei compensi della fiera all'architetto della villa di Sala. È vero, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere, che per Expo e direttamente da Expo l'architetto De Lucchi ha preso 110.000 euro. Ma dal computo manca una voce pesante. 500.000 euro più IVA e cassa pensionistica che nel 2013 l'architetto De Lucchi ha contrattualmente ricevuto in affidamento diretto senza gara per le progettazioni di allestimenti di Padiglione Zero Expo Center da Fiera Milano SPA. Cioè non li ha presi direttamente da Expo, ma apertamente, nell'interesse e su richiesta di Expo, nell'ambito di una convenzione che legittimava la facoltà di Expo di avvalersi di enti fieristici, ovviamente poi rimborsandoli. Quindi i soldi che ha preso l'architetto che ha lavorato alla Villa di Sala sono 110.000 direttamente da Expo, ma poi ha preso 500.000 euro dalla Fiera Milano per fare dei lavori per Expo. Voglio dire, c'è stato un passaggio in più, ma il risultato non cambia di granché. E infatti il Giornale e il Corriere della Sera criticano dicendo i soldi in realtà, anche se per vie non dirette da Expo, ma tramite Fiera Milano, sono arrivati comunque. Peraltro su Expo c'è un'altra notizia, questa ancora più seria se volete, perché il titolo del Fatto Quotidiano è questa, pagina 8, cosche nei lavori Expo, l'indagine segreta a Milano. Il Fatto Quotidiano rivela con Gianni Barbacetto a pagina 8 che c'è un'inchiesta che aleggia sulla procura di Milano, un'indagine segreta sulla gestione dei cantieri e la loro vulnerabilità alle infiltrazioni dell''Ndrangheta, assegnata questa inchiesta alla direzione distrettuale antimafia diretta da Ilda Boccassini. Inutile però fare domande a Palazzo di Giustizia, nessuno spiega a che punto sia l'inchiesta, nessuno neppure conferma che un'indagine sia stata avviata. Eppure un fascicolo deve essere stato aperto, perché a segnalare alla procura le irregolarità nei cantieri Expo è stato niente meno che il Comitato Milanese Antimafia, presieduto da Nando Dalla Chiesa e formato da Luca Beltrami, Ombretta Ingrasci e due ex magistrati milanesi, cioè Maurizio Grigo e Giuliano Turone. Dunque, il Fatto Quotidiano parla di questa inchiesta che ci sarebbe, bisogna usare il condizionale, segreta, affidata alla antimafia di Ilda Boccassini sui lavori all'Expo. Staremo ovviamente a vedere. Ci sono due notizie di cronaca che io accomuno e che mi hanno molto molto inquietato. Una riguarda una vicenda del passato, una una vicenda invece del presente. Ricordate la storia di Ina Salem, nata in Pakistan, emigrata in Italia nel 99, fu uccisa dal padre, che poi insieme a alcuni parenti, dopo averla uccisa, seppellì il corpo della figlia nel giardino perché voleva vivere all'occidentale. Fu un caso a Brescia, in provincia di Brescia, clamoroso. Ebbene, ora parla, il Corriere della Sera lo fa con Giusy Fasano, va a intervistarla, la mamma di Ina, o la moglie dell'omicida, che dice: mio marito ha ucciso Ina, pagherà, ma io lo perdono. La madre della vittima dice: non siamo una famiglia di integralisti, all'inizio ce l'avevo col mondo intero, con la vita, pensavo perché succede tutto questo proprio a me, alla mia famiglia, poi ho capito, era tutto scritto, il destino aveva già deciso per Ina, per mio marito, per me, e allora ho trovato la pace che cercavo. Vivere senza mia figlia sarà per sempre il mio più grande dolore, ma mio marito Mohammed resta l'uomo della mia vita, paga per quel che ha fatto, ma io l'ho perdonato e non lo abbandonerò mai. Così parla Bushra Begun, mamma di Ina, che vive a Lumezzane, in provincia di Brescia. Perché mi ha colpito questa storia di cronaca? Perché se uno salta sul giornale c'è una vicenda che, manco a farla apposta, richiama proprio quella di Ina. La racconta Nino Materi. Devi sposare quell'uomo, altrimenti ti sgozziamo. È pakistana anche lei, si chiama Ina anche lei. È stata portata a Cervignano, in provincia di Udine. Stesso nome di Ina Salem, 21enne pakistana, uccisa nel 2006 dai familiari del bresciano. Quasi stessa età, 24 anni, stessa nazionalità, stesse minacce. Se non sposi chi abbiamo deciso, ti sgozziamo. Nel caso di Ina Salem, racconta il giornale, la minaccia si concretizzò drammaticamente. Nel caso della giovane pakistana rifugiatasi in Friuli, a sventare la vendetta assassina di padre, madre e fratelli sono arrivati i poliziotti, che hanno convinto questa ragazza a scendere dal tetto dove era salita per urlare tutta la sua disperazione, e hanno contattato i familiari per invitarli a smettere con le intimidazioni. Insomma, due storie, una sul Corriere della Sera, purtroppo già conclusa dal punto di vista dell'omicidio, e una sul giornale invece sventato, racconta lo stesso Nino Materi, che vi voglio segnalare. Oh, storia d'Italia, succede che un giudice, per rinvii, slittamenti, pratiche che si accumulano, faldoni che si succedono uno dopo l'altro, è arrivato a dover trattare 197 cause in un giorno. Lo racconta Libero con Claudio Osmetti. Succede a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove il magistrato Maria Rosaria Pollio, come raccontato dal quotidiano Il Mattino, peraltro aveva l'agenda così piena di impegni che è stata praticamente impossibile gestire la mattinata. Doveva trattare 197 cause al giorno. Sì, avete letto bene. D'altronde, a continuare a far slittare dibattimenti e fare riunioni, si finisce con la scrivania piena di scartoffie. Inutile dire che avvocati, testimoni, consulenti non l'hanno presa benissimo. Si è rischiata pure la rissa che c'è in un video amatoriale girato da un legale, ha fatto il giro del web e lo trovate sul web in poche ore. 197 udienze in un giorno, tutti convocati, tutte le parti. Ma voi immaginate la scena. Tu a che ora sei? Alle 10? Oh, come? Io alle 10 e un minuto, io alle 10 e due minuti, io alle 10 e tre, e via così, tutti convocati. 197 cause. Va bene, dai, torniamo sul Fatto Quotidiano, perché qui c'è il premio per l'articolo che mi fa pensare della giornata. È l'articolo che vince il premio Mani sul volante. Se siete alla guida, appoggiate come al solito caffè bollenti, brioche ripiene, oggetti contundenti. Grazie. Il fan del boss Messina Denaro torna in comune. Lo racconta Giuseppe Lobianco, un'inchiesta che ha coinvolto Lillo Giambalvo, consigliere comunale, che parlava così: se io dovessi rischiare 30 anni di galera per nascondere il boss Matteo Messina Denaro, rischierei. La verità, ti dico, ci fossero gli sbirri qua e dovessi rischiare a mettermelo in macchina e farlo scappare? Ah, io rischierei, perché ci tengo a queste cose. E lo frequentava pure, secondo le inchieste, secondo altre intercettazioni. E il fan del boss, che diceva tra l'altro anche al telefono: se fossi Matteo, prenderei questo e ci ammazzerei il figlio, il figlio ci ammazzerei. Dopo tutto questo, dopo queste intercettazioni, assoluzione per questa persona, torna a fare il consigliere comunale a Castelvetrano. D'altronde è stato assolto, quindi tutto a posto per Lillo Giambalvo. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Quegneun, affermit, venenzit kengen kenel, casse sandrin cavales le giornel, e ne abiti idid com le lesce bel. Dialetto molfettese. Grande, è tornato al dialetto molfettese. Oh, potete mandarci le vostre sigle allo 0246524492. O anche, se volete, via WhatsApp. Sapete che via WhatsApp si possono mandare gli audio? E allora, dai, non è che vi devo spiegare tutto. È 349-238-6666. Vi mettete su WhatsApp, è gratuito. Ci mandate l'audio con la vostra sigla fatta bene e noi la mandiamo in onda. E non vi paghiamo, essendo gratis WhatsApp. Tutto per la gloria, cari ascoltatori. Tutto per la gloria vostra, dei vostri parenti, a dire: guardate, Alessandro Milan mi ha mandato in onda. E applausi. Ah, meraviglia. Qui ci stava l'applauso, caro Peter. L'applauso, quello posticcio, quello... Ecco. Va bene, allora, Renzi ieri è andato a porta, ha attaccato ancora l'Europa. L'Europa non ne azzecca più una, questo è il titolo del Corriere della Sera. Le incomprensioni, le tensioni, Juncker ha fatto tutto lui, io non faccio bizzette o polemicucce perché sono un attaccabrighe, ma dico che per anni abbiamo sempre detto di sì, ora invece voglio dire sì a cose che funzionino per noi oltre che per gli altri. L'Europa in crisi di identità e non ne azzecca più una. Dobbiamo aiutarla a cambiare. Così Renzi, che poi dice: volete uno più rissoso di me, dico all'Europa, e io vi mando Calenda, nuovo ambasciatore a Bruxelles, che ha gestito benissimo tanti dossier. Al di là delle dichiarazioni dirette, che cosa si consuma? Beh, è interessante l'intervista che oggi Alessandro Barbera fa a Mario Monti. Mario Monti, ex presidente del Consiglio, ma soprattutto anche uno che di Europa se ne intende, visto che è stato commissario europeo, e dice sulla stampa: con l'Europa toni sbagliati, servono azioni più profonde. La prende alla lontana Monti, dice: capita di frequente che un singolo paese si senta preso di mira. In realtà ciò che di solito favorisce la Germania non è la Commissione che è lì per applicare le regole, ma la timidezza degli altri Stati membri che esitano a far valere le proprie ragioni. Se Juncker è condizionato dalla Germania, E se si pensa che lo sia, dice Mario Monti, la cosa migliore sarebbe incalzarlo nel concreto, ad esempio preannunciando un ricorso alla Corte di Giustizia, se la Commissione non esige l'eliminazione dell'eccessivo avanzo con l'estero della Germania, ai sensi della regola contro gli squilibri macroeconomici. Ma qui viene poi la critica a Renzi. Alla domanda di Alessandro Barbera, dice il governo che da parte dell'Europa c'è stata un'interpretazione rigida delle norme sugli aiuti di Stato. Non fa bene il Premier ad alzare i toni? La risposta di Monti è questa. Alcuni tratti della narrativa del governo e del Premier sollevano alcune domande. Ad esempio, se l'Italia riprende la posizione guida dell'Europa non ce n'è per nessuno. Frasi come questa, appropriate ad esempio al bar dello sport, è difficile che non diano all'estero l'impressione di una certa presunzione e debolezza. Oppure quest'altra frase, l'Italia esige di essere rispettata. Se si esige rispetto, dice Monti, si sottolinea che quel rispetto non c'è. Suggerirei toni più bassi, visione e azioni più profonde. Così Mario Monti dà una stoccata a Renzi, intervistato dalla Stampa. Tra le varie crisi, le critiche, le accuse anche di non avere più un'azione incisiva di governo, oggi invece si erge il lecca lecca di Giuliano Ferrara sul Foglio nei confronti di Renzi. Dico lecca lecca perché mette un enorme lecca leccone. Giuliano Ferrara commenta il suo editoriale dal titolo «Un Renzi da leccarsi i baffi». Così scrive Ferrara: «Sì, non dovrei leccare il presidente del Consiglio in carica, ma ci sono abituato, è più forte di me. In tanti affettano disgusto per chi detiene il potere politico. In tanti pensano che il dovere di chi scrive sui giornali è la critica, la denuncia, la protesta, lo scandaglio dei misteri del male di palazzo, si abbiano o no le prove, il papà della Boschi, il lettone di Putin, i conflitti di interesse. Io però sono fragile. Sì, sono fragile, ho bisogno di adulare. Una volta il partito, una volta Craxi, una volta il Cavaliere, ora Matteo. È un impulso, qualcosa di tossico che implica dipendenza». E allora, fatta questa premessa, Ferrara dice: «La conferenza stampa di ieri a Palazzo Chigi era di un'esplosiva efficacia, l'ho ascoltata su Radio Radicale. Renzi, come una volta Berlusconi, ti fa stare su un altro pianeta, sono due che spiazzano. E poi l'importante è il tono, la sicurezza, il tratto. Ho scritto che me ne fido ed è così, ha l'aria di uno che si è messo a traballare. Ho anche suggerito che faccio una cura ingrassante, ma la conferenza stampa di ieri era un capolavoro tecnico. Congratulazioni». Insomma, questo è il lecca leccone di Giuliano Ferrara a Renzi sul Foglio. Dal punto di vista della politica, bella notizia su cui si interrogano tutti è questa: ma Verdini è entrato al governo? Di fatto no, ma è stata una stampella fondamentale, per la verità anche con alcuni senatori di Tosi, che però sul Libero dice: «Io però non ho ricevuto poltrone in cambio». Mentre Verdini, il partito di Verdini, ALA, ha ottenuto, ieri c'è stato un ricambio delle commissioni, 3 vicepresidenze di commissioni al Senato. Eccolo qui, Senato, ai verdiniani 3 vicepresidenze, sinistra Dem in rivolta, è il titolo di Repubblica. Il Messaggero: Senato, 3 vicepresidenze a Verdini, è solo l'inizio. Questo è Mario Aiello all'indomani del voto sulle riforme con le nuove commissioni, e la sinistra del PD insorge: vergogna. Senato, scontro sui posti ai verdiniani, Dino Martirano sul Corriere della Sera. Per la verità, anche se Tommaso Ciriaco nell'editoriale di pagina 15 di Repubblica dice: Renzi, in questo retroscena, in realtà sminuisce un po' il valore e il ruolo di Verdini e dei verdiniani. Dice: «Non esiste, al massimo ricorrerò a loro come pattuglia di pronto intervento parlamentare, un soccorso in caso di necessità. Succede, è successo altre volte». Ma insomma vuole cercare di sminuire un po' il ruolo di Verdini. E a questo punto... Insomma, uno ricorda anche Verdini, ex alleato di Berlusconi, ex? Sì, per carità, ex. Hanno litigato, pare che abbiano litigato. Insomma, il Partito della Nazione, sono movimenti interessanti. Iena, sulla Stampa, pagina 3, nel suo graffio la vede così: la nuova bandiera del PD, bianco, rosso e Verdini. Vabbè, insomma, un gran classico. Tanto è vero che Angelino Alfano, nuovo centrodestra, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Francesco Verderami, un'intera pagina, si capisce il motivo, no? Deve far vedere che è nuovo centrodestra che tiene in piedi il governo, prima che qualcuno gli venga in mente di pensare a Verdini che sostituisca in qualche modo il nuovo centrodestra. E infatti sentite Alfano: senza di noi non ci sarebbe questa legislatura, senza di noi non ci sarebbe questo esecutivo, senza di noi non ci sarebbero queste riforme che Verdini ha votato in coerenza con il patto del Nazareno. Ma tornerete insieme? Da fratelli coltelli? Ne parleremo, dice Alfano al Corriere. Certamente le alleanze referendarie scomporranno e ricomporranno l'offerta politica. Ecco, capite? È la scomposizione e la ricomposizione. Questo è il motivo dei movimenti. Non tre bieche poltrone di vicepresidenza, tre strapuntini, tre cambi, tre nomi. No, si chiamano scomposizione e ricomposizione. Immaginate la politica come un quadro astratto alla Picasso. Composizione, scomposizione e ricomposizione. Se ci scappano delle poltrone in questi movimenti astratti, che dobbiamo fare? Mauro Meazza, ci sono strapuntini in arrivo? Tu come sei messo? Non mi risulta, non so se nelle scomposizioni e ricomposizioni, decomposizioni mi veniva anche in mente. Anche a volte sì, a volte ci si decompone. Possono esserci anche delle decomposizioni forse. No, non mi risulta, però guarda, io leggendo il Sole 24 Ore di oggi, tra le altre cose, tra l'altro hai visto che le parole, lo hai già ricordato, del governatore della Banca Centrale Draghi sono state molto bene accolte dai mercati e anche oggi, insomma, sembra che la giornata cominci bene. Leggevo che oggi è una giornata importante per i famosi crediti deteriorati. Ah, delle banche. La questione della bad bank, insomma, bad bank, che non sarà però più una bad bank, sarà un meccanismo un po' più articolato. Ti spieghiamo tutto sul Sole 24 Ore di oggi, ma perché oggi è una giornata importante? Perché andiamo soprattutto a spiegarlo alla commissione, ennesima riunione con la commissione UE. Vediamo se il progetto piace, al di là delle posizioni, diciamo, politiche. Ecco, adesso siamo più sul tecnico, ma se vuoi approfondire c'è tutto sul Sole 24 Ore di oggi, naturalmente. Oh, e poi mi spiace un po' dirlo, perché mi sento responsabile, Alessandro. Cioè, io non vorrei, con quell'lapsus precomplicata, precompilata, aver creato un casino. Ma sì, oppure avere anche portato grammo, non saprei dire. No. Comunque, la notizia... Quello la all'Inter, notizia, semmai, quello facciamo la solo non facciamo dello spirito, non mescoliamo l'Inter con la precomplicata. Casomai l'Inter è la beniamata, poi ti ricordo. Ecco. La precomplicata, ecco, mi fai sbagliare, vanno in confusione, mi pare dell'Inter. Allora, la notizia è che sono stati assegnati 9 giorni di proroga, così ha comunicato l'Agenzia delle Entrate, per l'invio dei dati sanitari. Quindi si va il 9 febbraio, c'è tutto naturalmente spiegato oggi sulle pagine di Norme e Tributi, anzi sulla prima pagina. Poi se qualcuno ritiene che io abbia un po' così tirato la volata a questa proroga, non lo nego assolutamente, non volevo portare male. Certo, non è che sia proprio partita col botto sta precompilata di quest'anno. No, effettivamente. Sono cose che succedono, dice anche il tuo inserto audio a un certo punto. Oh, ti voglio dire, sai che si doveva votare l'omicidio stradale, ultimo come no. Queste composizioni o scomposizioni? Ricomposizioni. Composizioni, insomma, vabbè. La questione non si è composta per niente, si comporrà probabilmente con un altro voto in Senato. Sì. Naturalmente Maurizio Caprino da par suo ti spiega tutto anche nel dettaglio, nelle pagine, come sempre. Di Norme e Tributi. Oh, ma noi bravissimo. Poi alle 8:20 avremo il papà di un ragazzo che è morto per un incidente stradale, travolto da un ubriaco, ed è un po' il padre, è uno degli ispiratori di questa legge, che però si è decomposta temporaneamente. Ci sono delle perplessità nel merito, spiega bene Maurizio Caprino, ma mi sembra di capire ci sono anche delle perplessità politiche e su quelle mi taccio, sei più preparato tu. Ti voglio poi dire, ricordati che martedì cominciamo con un'iniziativa speciale per spiegare la riforma Madia. Sì. Anche oggi ne parliamo naturalmente sul Sole 24 Ore dei contenuti della riforma, tra le altre cose anche il licenziamento degli assenteisti in 30 giorni, questa è la promessa della nuova norma. E però martedì prossimo, segna, te lo sei scritto? Eccolo qua, martedì. Oh, bravissimo. Oh, un'ultimissima cosa che ti voglio dire. C'è stato l'avvio di una commissione parlamentare della UE sulla Volkswagen per il noto caso del Dieselgate. Ah. Lo trovi nelle pagine di Finanza di oggi. Senti, ma l'Inter con chi gioca? Non vuoi fare il solito pronostico? Ma, sì. Anche se, ma questo teatrino, vabbè, non è che ti ha portato benissimo l'ultima volta. No, no, no, l'ultima volta no. No, ma strangolati pure con le tue stesse mani. Facciamo il pronostico. Cioè? Io assisterò così. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Inter? A me risulta un Intercarpi, no? È un Empoli-Milan. Ma Intercarpi, allora 3-1 per l'Inter, dai, su. Ah, proprio sei passato alla gufata di queste benauguranti. Intercarpi, 3-1. Va bene, io ricambio bene. Naturalmente di tutto cuore con un caro augurio anche per a te. Il tuo fine settimana calcistico. Posso lanciare il meteo una volta? Così sì, per fallo. Ah, tu poi mandi il meteo? Sì, no, mandalo. Allora, vabbè, mi tocca. Traffico! Alessandro Milan! Ma che cazzo è Alessandro Milan? Boh. E allora, il caso Etruria, si riapre un po' la polemica sul ruolo del procuratore capo della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi, perché dopo l'inchiesta di Panorama, che ha pubblicato un lungo articolo per raccontare che il papà del ministro Boschi è stato indagato, poi archiviato in passato, e si è occupato del caso Roberto Rossi, ecco che il CSM ha riaperto il fascicolo sul procuratore d'Arezzo, perché, scrive Fiorenza Sarzanini a pagina 13 del Corriere, il magistrato aveva negato di aver avuto a che fare con l'ex vicepresidente dell'istituto Pierluigi Boschi, il papà del ministro, omettendo di raccontare che in passato lo aveva iscritto nel registro degli indagati e poi prosciolto. E quindi questa omissione ha fatto riaprire il fascicolo del CSM. Aveva già aperto un fascicolo quando si era venuto a sapere che il procuratore di Arezzo era consulente del governo. E ora il CSM studia i legami tra Roberto Rossi, procuratore di Arezzo, e il papà della Boschi, e non si esclude un trasferimento per incompatibilità ambientale, fa sapere il Corriere. Tra l'altro, su questa vicenda parla con il Fatto Quotidiano Mario Saporito, chi è? Calabrese di Petiglia Policastro, in provincia di Crotone, ex socio in quell'affare raccontato da Panorama, una compravendita qualche anno fa con il papà della Boschi, con Pierluigi Boschi. Boschi si prese 250.000 euro del terreno e poi il fisco ne ha chiesti 94.000 a me. Ovviamente racconta tutta la sua vicenda, intervistato da Marco Lillo, questo Mario Saporito, che dice: ma che mafia, hanno scritto che io c'entro con l'Andrangheta, non ho mai, nessuno della mia famiglia è stato indagato per l'Andrangheta, riguardo al tentato omicidio di cui qualcuno ha scritto è stata una lite per un parcheggio con mio cugino, dopo 25 anni tirano fuori questa cosa e mi costringono a spiegarla a mio figlio. E poi racconta di questa compravendita, quando la cooperativa Valdarno Superiore, su iniziativa del presidente Boschi, cioè lui, propone all'Università di Firenze di comprare a 7,2 milioni di euro la Dorna, fattoria Dorna, 300 ettari e 12 immobili in Valdichiana. Racconta di questo mutuo ottenuto dal Monte Paschi, 4 milioni di euro, solo grazie al nome di Pierluigi Boschi. A me i soldi non li avrebbero mai dati, se non era per lui a me non davano il mutuo. Boschi aveva il 33% e io mi pare il 66%. E poi racconta di questi 250.000 euro che Boschi avrebbe chiesto al professor Marco Apollonio per in contanti per la vendita in nero di un terreno. E io che c'entro, risponde questo signore calabrese. Io soldi non ne ho mai avuti. Il compratore Apollonio dice che non mi ha mai visto e ha dato i soldi a Boschi. Chiedete a lui. E ora il fisco chiede 90.000 euro di tasse a me. Insomma, la vicenda continua a essere raccontata nei dettagli sui giornali. In tutto questo, cari amici di Roma, volete sapere cosa farà Ignazio Marino? Oggi Ignazio Marino prende carta e penna, scrive una lettera lunga su Repubblica, parla di primarie ipocrite a Roma e dunque scioglie il nodo. Mi chiedono in tanti cosa farò. Posso dire che cosa non farò, e cioè non parteciperò alle primarie del Partito Democratico. Questo è il titolo della lunga lettera di Ignazio Marino, ex sindaco di Roma. Primarie ipocrite, io non parteciperò. E, mentre invece finisce l'avventura di Rosa Capuozzo, sindaco di Quarto, addio al veleno, vince la camorra, abbandona la carica di sindaco, e questa vicenda, insomma, almeno politicamente si chiude, anche se le polemiche per il Movimento 5 Stelle continuano. C'è molto anche di attualità internazionale, siamo in diretta anche su Periscope e quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono lì. La notizia più importante all'estero è quella dell'accusa di Londra che riguarda l'omicidio di Litvinenko. È l'omicidio di qualche anno fa, quando Litvinenko fu ucciso probabilmente su ordine del Cremlino, così dice Londra. Quindi l'accusa da Londra direttamente a Putin di essere di aver mandato dei mandanti, che sono identificati anche uno nell'onorevole deputato russo Andrei Lugovoi, di essere venuti a Londra e di aver messo il polonio nel caffè di Litvinenko. Beh, una storia che ricordate tutti. Lugovoi, tra l'altro, viene intervistato da Repubblica e dice: è un'inchiesta ridicola, figurarsi se io sono il killer. Comunque, siamo alla carta costa. L'articolo più inutile sui giornali è una pagina del Corriere che, prendendo spunto dalla trama del film di Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, in cui i protagonisti si leggono gli sms dei reciproci cellulari, mi fai vedere i tuoi sms, una pagina per raccontare che questo nuovo gioco che sta per nascere, tipo ci scambiamo i telefonini, mi fai vedere i tuoi sms, io ti faccio vedere i miei, potrebbe mettere in crisi relazioni, una pagina, mi fai vedere i tuoi sms? Ma chi se ne frega!